Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia, vi stavamo aspettando, abbiamo Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, abbiamo già i nostri ospiti al telefono, ma prima di presentarveli voglio farvi sentire i titoli del nostro sommario. Rabbia, un'emozione dalle mille sfaccettature. Lenti a contatto, quali ti aiutano a vederci chiaro. Yoga Prêt-à-porter. Comico penoso. Comico non sono mai stato. Ecco. Io propongo. Comico è lui. Lui fa il comico, si pettina. Io lo faccio ridere perché sono serio. Lui mi fa pena perché è un comico. Ma poi metto via, imbecille, passagli il microfono e gli dico io chi è. Ma non c'hai consultato. Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! La conosciamo tutti e sappiamo che quando sale straripa proprio come un fiume in piena e rompe gli argini. Arrabbiato nero, accecato dalla rabbia, essere fuori di sé, sono solo alcuni esempi dei tanti modi di dire che usiamo per descrivere la rabbia, questo stato d'animo che direi ha mille sfaccettature. A volte ci ingabbia, ci fa star male, a volte invece ci sprona, perché non sempre la rabbia è negativa, in alcuni casi può essere positivamente risolutiva, quando ad esempio ci aiuta a superare le nostre paure. Oggi discuteremo di rabbia insieme al professor Sorrentino, che è tornato a trovarci. Buongiorno, è un piacere. Professore. Hey. Buongiorno. Neurologo. No, ero troppo contenta, l'ho in qualche modo coperta, inondata proprio. Neurologo e neuroscienziato, direttore dell'Istituto della Ricerca e Cura per gli Attacchi di Panico presso la clinica Pio XI di Roma e autore di un libro che vorrei proprio che voi leggeste perché mi è piaciuto moltissimo. Si intitola Rabbia, ha una bellissima copertina verde, professore, verde rabbia. E come sottotitolo ha l'emozione che non sappiamo controllare. Mondadori, scritto dal professor Sorrentino insieme a Cinzia Tani. Ma oggi abbiamo rinforzi perché in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Paolo De Nardis. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ordinario di sociologia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Come sempre i nostri contatti 800 24 0024, il numero verde 349 238 6666. Professor Sorrentino, con la rabbia ognuno di noi ha un rapporto diverso. C'è chi la butta fuori, che proprio non si trattiene, chi invece riesce a tenerla dentro, chi la cova. Beh, ciascuna di queste situazioni possono anche essere presenti in momenti e situazioni diverse nella stessa persona. Quindi direi non tutti si arrabbiano, quando si arrabbiano lo fanno nello stesso modo e con le stesse modalità. Naturalmente. Per fortuna, no? Così variamo. Assolutamente, ma la rabbia, essendo un'emozione, ognuno di noi vive le proprie emozioni in maniera soggettiva, in rapporto al proprio stato d'animo, in rapporto alle proprie esperienze, in risposta degli stimoli, a delle sollecitazioni e dei messaggi che evidentemente investono quella persona. Ecco, questa modalità soggettiva però in qualche modo a volte ci può sfuggire di mano, e allora la rabbia, come sempre più spesso vediamo, come accade nel mondo contemporaneo, la rabbia ci sfugge di mano e può diventare una rabbia armata, diventare aggressività, può diventare impulso e a volte, ahimè, violenza. Professore De Nardis, viviamo in una società in cui la rabbia la fa quasi da padrone, è molto esposta, visibile e direi quasi accettata. A volte diventa un po' la cifra che definisce lo status e il successo anche di personaggi, di televisioni, di spettacoli, le famose telerisse. Sì, è vero. Vent'anni fa non c'erano. No, assolutamente, ecco. Assolutamente. Vent'anni fa vigeva un'argomentazione razionale molto più pacata. Mentre sono quanto mai d'accordo con la lucida analisi che Rosario Sorrentino ha fatto, lo saluto affettuosamente, ancora reduci da un evento che è stata la presentazione del suo libro l'altro giorno qui a Roma è stato veramente... Che so che è stato un grande successo. Un grande evento, un grande successo, come del resto quello del libro precedente, del Panico, sul Panico. Sì, quello che le dice è quanto mai è giusto, nel senso che oggi la rabbia, come dire, si taglia a fette, ha un suo spessore, ha una sua corposità. Ma i motivi di tutto questo? Ma evidentemente siamo di fronte a una complicazione della vita quotidiana che non permette a tutti di raggiungere quei piccoli traguardi che proprio la quotidianità, non dico impone, ma in qualche modo suggerisce. E purtroppo tra gli ostacoli molto spesso c'è la figura dell'altro. L'altro non viene visto come un fine, ma come un mezzo. E siamo in una società, l'ho detto anche l'altro giorno, di tanti io senza noi. Allora, come dire, tutti i legami sociali si vengono a indebolire, tutti i momenti di maggiore solidarietà che sono alla base di ogni patto sociale si vengono a indebolire, tale da far scatenare appunto quei meccanismi che da un punto di vista neurologico così in maniera così netta e così chiara ha spiegato Rosario Sorrentino. Professore, lei infatti nel suo libro spiega da dove nasce la rabbia e leggendo il suo libro si scopre che la rabbia e gli attacchi di panico hanno dei circuiti cerebrali identici. Ed è questo forse un po' l'elemento cardine. Perché forse lei come neuroscienziato, giustamente, io penso che a differenza del primo libro, che è molto informativo sul panico, questo è un po' una denuncia, perché lei come neuroscienziato e neurologo ci sta dicendo, ma che guardiamoci intorno, che cosa sta succedendo. Perché questa emozione, che è primaria, quindi ce l'abbiamo tutti, sta veramente straripando, sta connotando così pesantemente la nostra quotidianità. Però se i circuiti sono uguali, il circuito cerebrale di un uomo di 30 anni fa è uguale a questo oggi, cosa succede e dove nasce? È cambiato qualcosa e sta cambiando, ahimè, sempre in maniera più preoccupante. Le spiego anche perché vede, noi stiamo assistendo ad una sorta di conflitto di potere nel nostro cervello, una sorta di perdita di un equilibrio tra quello che è la parte emotiva, istintiva e la ragione. Ecco, diciamo che questo libro è un'opportunità, è uno spaccato per leggere, o meglio rileggere, alla luce delle nostre attuali conoscenze neuroscientifiche, che una tregua si è rotta nel nostro cervello, e quella tregua che si è rotta, quell'equilibrio appunto tra istinto e ragione, è in qualche modo localizzabile in quello scontro che è in atto nel nostro cervello tra corteccia prefrontale e amigdala, cioè il luogo, la corteccia prefrontale dove dimora la saggezza e la ragionevolezza, la prudenza, e l'amigdala che è un po' il luogo, la pancia da dove partono poi emozioni come il panico, la paura, ahimè anche la rabbia e l'aggressività. Ecco, questo scontro in atto non c'è dubbio che oggi faccia prevalere maggiormente in una sorta di egemonia, di supremazia, la parte istintiva, dove oggi ancora è più importante agire che pensare. Quando poi noi pensiamo, è troppo tardi, perché passiamo rapidamente da quel fermati, non lo puoi fare, al già fatto. Ecco, questa cosa però va inserita nell'ambiente, nella natura. Infatti nel libro io parlo di vendetta della natura, perché la natura che in qualche modo noi abbiamo contaminato, avvelenato, l'ambiente, gli stimoli che provengono da questo ambiente, la carica biologica, hanno un impatto chimico nel nostro cervello e fanno prevalere quelle sostanze che ancora agevolano, promuovono quell'egemonia dell'amigdala, cioè la nostra parte istintiva. E allora è un cervello a trazione anteriore che ci fa commettere delle cose e farci dire in quel momento: oddio, che cosa ho fatto, che cosa ho commesso, ma è già tardi. Lei, professore Sorrentino, ha detto commettere e dire. Allora io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci come vivono la loro rabbia, se più con i gesti, più con le parole, se invece la rabbia la fanno sobbollire dentro. Alcuni ascoltatori mi suggeriscono già delle domande, ad esempio la rabbia per un rimorso, se ci sono delle situazioni, delle persone che vi fanno arrabbiare di più. Il classico è l'automobilista che si arrabbia in macchina, no? Mi viene sempre in in mente Gioele Dix, quindi raccontateci la vostra rabbia. Io penso, professor Sorrentino, che possa anche essere questo un esercizio per staccarci, no, dalla situazione e guardarla con occhi oggettivi e quindi provare a cambiare un po'. Non possiamo cambiare la testa, ma sicuramente l'atteggiamento. Ma direi proprio di sì, però attenzione, perché la rabbia è la punta di un iceberg. La rabbia va indagata una volta che si sono escluse tutta una serie di possibili psicopatologie, cioè forme di disagio mentale serie, dal grave disturbo di personalità alla psicosi, alla psicopatologia, eccetera. La rabbia diventa un tratto del nostro temperamento, del carattere, della personalità, che esprime sempre un forte dolore. Ecco, però attenzione, perché la rabbia poi, quella trattenuta, si stratifica, si sedimenta e poi, ahimè, si sprigiona, e si sprigiona quando meno ce l'aspettiamo, tant'è vero che oggi uno dei disagi più emergenti è l'impulso, quello che voi giornalisti chiamate raptus di follia, che non appartiene a nessuna categoria scientifica, ma altro non è che l'impulso, ma l'impulso altro non è che la sconfitta del cervello, di una parte del cervello, perché quando dice che cosa ti è scattato in testa, che cosa ti passa in testa, ecco, è scattato quell'interruttore che non è più bloccato, frenato dalla corteccia prefrontale, da quel tutor naturale, biologico, che dovrebbe inibire e ahimè non lo fa più. 800 24 0024, fate tranquillamente il nostro numero verde, non arrabbiatevi se ne lo trovate occupato, chiamateci anche però se oggi qualcuno vi ha fatto arrabbiare, date sfogo alla vostra rabbia, il professor Sorrentino, ma solo oggi, con una valenza, se vogliamo, un significato terapeutico, e il professor De Nardis sono qui per darci una mano. I messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. E a proposito di rabbia, a volte, come abbiamo detto, acceca, ma nella maggior parte dei casi, quando non vediamo bene, la causa è un disturbo di rifrazione e la soluzione del problema è semplice, a portata di lente o di lentina. Oggi ci occupiamo di lenti a contatto, c'è infatti per ogni disturbo, vizio di rifrazione, una lente adatta per correggerlo. Ci in linea con noi abbiamo il professor Pasquale Troiano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Della Clinica Oculistica Università di Milano, presso l'ospedale Policlinico, e anche presidente della Società Italiana di Contattologia Medica. Quindi, professore, le lenti a contatto sono il suo forte. Anche. Non solo, anche, giusto. Senta, professore, dicevo, vizi, difetti di rifrazione, quindi sono i più diffusi, miopia? Il più diffuso, senz'altro, la miopia, insieme all'astigmatismo e poi la ipermetropia. Sono difetti che interessano la grande maggioranza della popolazione, spesso e volentieri non sconosciuti allo stesso portatore, soprattutto quanto di piccola entità. Sì. Oggi abbiamo grandi opzioni per poterli correggere in maniera ottimale. Non dimentichiamoci che la popolazione invecchia, e con l'invecchiamento compare anche la presbiopia, che si va a sommare al difetto di base. Molti miopi sono convinti che invecchiando potranno fare a meno degli occhiali. Sì. Questo non è vero. Anche i miopi, che sfruttano in parte la loro condizione per compensare la subentrante presbiopia, a un certo punto avranno bisogno di un occhiale per non c'è scampo. Le loro necessità per vicino. E quindi si cade inevitabilmente verso la necessità di correggere lontano, di correggere il vicino. Ci sono molte opzioni, si può correggere ad esempio il valore per lontano con le lenti a contatto, rinunciando in questa maniera alla necessità di avere una correzione per lontano, e poi aggiungere ad esempio sulla lente a contatto un piccolo occhialino per leggere, no? O per le altre mansioni per vicino. Oppure si può ricorrere a delle vere e proprie lenti multifocali, sì, progressive, che possono essere ovviamente sia su occhiale che su lente a contatto, che ci permettono di avere una ottima capacità visiva ed un ottimo fuoco a più distanze. Sì. Perché la presbiopia, la distanza che penalizza di più non è tanto il vicino lettura, ma le distanze intermedie, non lo so, il lavoro a computer, eccolo, le distanze collocate intorno ai 60-70 centimetri dei nostri occhi. Quindi oggi veramente con le lenti a nostra disposizione possiamo coprire, se possiamo usare questo termine, la maggioranza di tutte le situazioni rifrattive, anche quelle più complesse, sia ricorrendo alle lenti morbide già precostruite, se possiamo dire così, che ricorrendo a lenti fatte su misura, di solito a struttura rigida. Sì. Questo soprattutto nelle situazioni un pochino più complesse da un punto di vista di tipo di difetto. Allora, professore, che tra l'altro ricordo è anche presidente dell'ONLUS per vedere e fatti vedere. Molto importante questa promemoria. Ecco, questo è un promemoria che dobbiamo così ricordarci tutti. Quindi una lentina e non, magari tante volte non ci arrabbiamo, non è che voglia suggerire lenti a contatto al posto degli occhiali, ma sa, a proposito di rabbia, quanto ci si arrabbia quando non si trovano gli occhiali nella borsa? Soprattutto le signore si arrabbiano moltissimo. Ecco, perché... No? Quando ad esempio non trovano gli occhiali e non sanno come sopperire a questa situazione. Con la lente a contatto è ovvio che questo non è un problema che esiste, perché no. La lente a contatto uno non la toglie, la mette ogni 3 minuti, ecco. Come succede con l'occhiale, no? E poi il grande vantaggio della lente a contatto, ad esempio oggi, insomma, una giovane signora di 45 anni piace che lei abbia sottolineato giovane, certo, se no mi faceva arrabbiare subito. No, chiamavo il professor Sorrentino. Stiamo sul giovane, perché oggi così certo. È. Le siamo giovani come l'acqua, certo, le richieste sono sempre elevatissime, no? E però la lente a contatto, mentre l'occhiale, sì. No? Se una 45enne al ristorante si mette su l'occhialino per leggere, ha svelato l'età a tutto il mondo, no? Ecco, con la lente a contatto questo. Quindi inganniamo un po', inganiamo oppure facciamo leggere il menù al nostro e a qualcun altro. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. A voi, a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Pronto soccorso. L'esempio migliore di come ti può trasformare la rabbia è mia madre. Era la persona più simpatica che avessi mai conosciuto. La donna più dolce che chiunque avesse mai conosciuto. Poi le cose sono cambiate. E lei è cambiata. È diventata una donna arrabbiata. Profondamente arrabbiata. La rabbia l'ha fatta diventare una donna triste e amareggiata. Se non fosse mia madre la prenderei a schiaffi. Sì. La guarderei negli occhi e le direi tutto quello che penso. Professor Sorrentino, oggi insieme a lei e al professor De Nardi esploreremo la rabbia nella persona che la agisce, la sperimenta, ma ci occuperemo anche di chi è vittima, di partner oppure di colleghi che quindi può capitare, no, di subire la rabbia e di farlo tante volte anche nel corso della giornata. Andiamo subito da Francesca che ci chiama da Roma. Francesca, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi chiamato. La mia domanda è questa: essendo madre di un figlio di 35enne che sin da adolescente ha manifestato sempre attacchi di rabbia anche per situazioni abbastanza semplici, quindi con un atteggiamento verbalmente fortunatamente violento, sì. Arrivati a 35 anni io mi sono sempre chiesta in questi anni forse cambierà, modificherà. Sì. Ecco, invece questo non avviene. Allora, naturalmente in questi anni il mio atteggiamento è stato naturalmente vario, sì. Da far finta di niente, dall'andarmene, da rispondere male, da rispondere con calma, da non rispondere per niente. Le ha provate tutte, Francesca. Brava. Allora certo. Io a questo punto non so che cosa fare, anche perché il mio carattere, essendo totalmente diverso, mi sento ferita, perché lui in questa sua rabbia cerca sempre di dire delle cose cattive, cioè fortunatamente non è una persona che alza le mani, per carità. Però è una rabbia che ferisce. Ferisce, ecco, cerca di tirar fuori questa sua rabbia ferendo e quindi diventa anche molto spiacevole tutto ciò. Grazie. Grazie a lei, Francesca. Io chiedo al professor Sorrentino, dato che dobbiamo dare i mercati, Francesca ci ha descritto veramente un caso, professore, con minuzia di particolari, vero? Ma è uno di quei casi dove appunto la rabbia va indagata, va approfondita, va definita, ma anche perché molto spesso dietro queste manifestazioni di rabbia si cela, si nasconde la mancanza di autostima, la mancanza di controllo, soprattutto il tentativo anche di proteggere quella vulnerabilità e quella fragilità che molto spesso con la rabbia si riesce a coprire e a tenere a distanza tutta una serie di situazioni evidentemente fastidiose per quel tipo di persone. Ero arrabbiato con il mio amico. Gli dissi della mia rabbia. La rabbia sparì. Ero arrabbiato con il mio nemico. Non gli dissi della mia rabbia. La mia rabbia aumentò. William Blake. E la frase di William Blake ci permetterà di anche introdurre il come affrontare la rabbia. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, al professor Rosario Sorrentino, autore di questo libro bellissimo, Rabbia, l'emozione che non sappiamo controllare, e al professor Paolo De Nardis, che è sociologo. E volevo coinvolgere il professor De Nardis riguardo a un aspetto che ha toccato il professor Sorrentino a commento della telefonata della nostra ascoltatrice, che raccontava degli episodi di rabbia molto frequenti e anche violenti, anche se solo verbalmente, del figlio 35enne. Il professor Sorrentino ha detto spesso è proprio una mancanza di autostima, che è un male un po' comune nella società di oggi, professor De Nardis. Eh sì, è vero che sono d'accordo con questa diagnosi, perché alla base del tutto molto spesso c'è un'insicurezza profonda, l'insicurezza perché purtroppo oggi questo tipo di società non permette la realizzazione di tutti, ma solo la realizzazione di qualcuno. Quindi queste frustrazioni di fondo, che evidentemente poi si combinano anche a delle forme di socializzazione fin da bambino, di cui sono responsabili anche i genitori, lo dobbiamo dire alla signora, nel senso che la scuola, la famiglia in qualche modo danno l'imprinting di un carattere, di un modo di essere, e evidentemente poi scoppiano quando appunto non è possibile raggiungere un fine. Ma questo proprio perché, quello che si diceva prima, molto spesso questo fine viene in qualche modo rappresentato come qualche cosa di prettamente egoistico, realizzazione di un ego rispetto ad altri che invece fungono soltanto da mezzi per questo fine. Ovviamente questo è un tipo di società in cui si va a sabotare quello che è il collante integrativo, quello che è un po' la solidarietà, quindi è una società, i classici dicevano, dell'insocievole socievolezza. E allora che cosa significa? Significa che evidentemente l'altro, essendo percepito come un ostacolo, viene in qualche modo percepito anche come qualcuno contro cui sfogare la propria frustrazione. Questa aggressività, per fortuna solo verbale, come ci dice la signora, non è altro che una spia luminosa, un campanello d'allarme evidentemente di un disagio fondamentale che deriva dal non stare bene in una certa situazione e che evidentemente ha radici anche profonde. Prego, scusi. Ha radici anche profonde, che come lei dice magari si... Evidentemente quelle che sono state promesse a se stessi o promesse fatte forse anche alla famiglia non vengono realizzate, o almeno si ha questa percezione, e si ha sempre la percezione anche di un pubblico giudicante che dà i voti. Magari non esiste questo pubblico giudicante, ma lo si sente, è qualcosa di fortemente presente, e questo giudizio di qualcuno sempre presente in effetti rende la situazione sempre più incandescente. È una Santa Barbara in ebollizione dietro l'angolo che può scoppiare da un momento all'altro. Allora tutto questo evidentemente ci fa capire come questi atteggiamenti violenti che scaricano questa rabbia non è la semplice, come dire, ira. Ecco, Seneca ha scritto quel meraviglioso trattato, il De Ira, dove metteva le premesse di quella che potesse significare all'epoca la rabbia. Ma la rabbia è fortemente condizionata, lo accennava lei prima attraverso una domanda proprio al professor Sorrentino, fortemente condizionata dall'epoca sociale, dalla storia, dal contesto in cui si produce. La rabbia di oggi non può essere paragonata alla rabbia di ieri, la rabbia dei moderni o dei tardomoderni non è la stessa rabbia degli antichi, anche se di fatto poi gli effetti possono essere similari, soprattutto quando sono effetti distruttivi. Cioè, nella intolleranza dei moderni, c'era un bellissimo film dell'epoca del muto, di un grande maestro del muto, Intolerance, non c'è soltanto l'intolleranza nei riguardi di altre idee, di altre posizioni, ma l'intolleranza nei riguardi dell'altro, che viene considerato proprio come qualcuno da piegare, da conculcare. Ecco, dovremmo fare uccidere. Proprio una puntata sull'altro, chi è l'altro, come ti relazioni. Professor Sorrentino, ho una serie infinita di sms da sottoporre a lei, sì, al professor De Nardis, e molte telefonate. Darei la precedenza a Maria Teresa dalla provincia di Latina, che non vorrei si arrabbiasse, per l'appunto, perché è un po' che è in attesa. Buongiorno Maria Teresa, benvenuta. Poi buongiorno, leggiamo alcuni messaggi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professore. Ma certo. Allora, io mi alzo la mattina, che sono già arrabbiata. Ma molto arrabbiata, ed è una cosa che anche mio fratello, mio marito, oramai imparato, perché sono 35 anni che siamo sposati, sì, oramai evita di parlarmi. Ma così almeno non... Ma lei a quello, cioè, che si... di avere ogni contatto con me, così non litighiamo. Poi magari usciamo, prendiamo il caffè, che sta cosa mi passa. Quindi lei ha un risveglio che, in modo, cioè, con un eufemismo si potrebbe chiamare un risveglio lento. Lasciatemi stare. Poi diventa, sì, di nuovo socievole, cioè, no, morbida. Non è che ho sonno, che però no, no, un po' da prendere con le punte. Sono già, diciamolo, incazzata già dalla mattina. Ecco, professor Sorrentino, però Maria Teresa è sposata da 35 anni. Allora, o il marito è un santo, oppure Maria Teresa, poi, voglio dire, si fa... Lei mi consente un momento di autenticità, di sincerità? Sì. Allora... Mentre così facciamo un esempio, così i nostri radioascoltatori possono comprendere bene come funziona il meccanismo della rabbia. Mentre io attendevo, sì, la lunghissima, come dire, pausa della pubblicità, secondo me troppo lunga, una parte di me, la parte l'amigdala impulsiva mi diceva: forse è il caso che tu interrompi il collegamento. Poi la corteccia prefrontale mi ha detto: no, non lo puoi fare, non te lo puoi permettere, perché la trasmissione è talmente utile per inviare dei messaggi che non è il caso che tu lo faccia. Ecco, vede, tutti noi, tutti i giorni, siamo combattuti tra l'esprimere, far emergere un impulso, e invece far prevalere la parte ragionevole. Quando dico che la famigerata testata di Zidane a Materazzi è un esempio importante, perché documenta neurologicamente quello che accade nella vita quotidiana. In altri termini, noi siamo tanti piccoli Zidane. Nella vita quotidiana, quando noi siamo nel traffico e qualcuno... o nel condominio, qualcuno ci offende, c'è un senso di giustizia che emerge e a volte travolge le nostre migliori intenzioni. Allora è lì che bisogna dire: fermati, fermati, non lo puoi fare. Anche perché, vede, purtroppo noi stiamo vivendo una situazione dell'immagine che è un po' l'immagine dell'Italia che cambia, quella romantica, dove noi siamo passati dall'essere un popolo di poeti, santi, navigatori, a essere quello di un popolo di invidiosi, vendicativi e ricattatori. Questo, tutto ciò ovviamente non fa altro che generare rabbia, aggressività e talora violenza. La gente la mattina si alza già scontenta, già delusa, già frustrata, perché vede, noi abbiamo aumentato e stiamo aumentando sempre di più le nostre incertezze a sfavore delle certezze. Basta che ci va male soltanto una cosa e noi siamo già scontenti, abbiamo già un animus portato alla rabbia, portato ad aggredire l'altro. Ecco, è un'aggressività che fa diventare il nostro cervello una sorta di ghiandola impazzita che secerne veleni, secerne sostanze che avvelenano l'animo umano. E allora bisogna riscaprire dei valori fondanti, che sono quelli della solidarietà, della, ovviamente escludendo altre cause, come dicevo prima, che possono nascondere delle psicopatologie. Professor Sorrentino, io adesso non vorrei che lei si arrabbiasse, ma devo dare il traffico, ritorniamo però subito dopo. Ho Roberto da Bergamo che ci scrive a proposito delle risvegli un po' arrabbiati. Anch'io mi svegliavo sempre arrabbiato, ma da quando ho un cane sono cambiato. Professor Sorrentino, anche Valeria Bernardi e Laura Vanossi erano molto preoccupate adesso. C'è ancora, vero? Sì, sono qui, ma mi stavo veramente arrabbiando, le dico la verità. Professore, abbiamo Stefano che ci chiama dalla provincia di Lecce. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo esporre un quesito. C'è un problema con un parente, diciamo, molto vicino. Questo qua si arrabbia molto facilmente e spesso si sfoga in aggressività. Ecco, noi gli abbiamo consigliato di andare magari a uno psicologo a parlarne, però lui non ne vuole sapere. Professor Sorrentino, mi sembra che questo sia uno spunto interessante. Quando la rabbia diventa, a volte diciamo, ha un brutto carattere, sta attraversando un momento particolarmente stressante, perde spesso la pazienza. A volte è una situazione temporanea, ma ci sono delle situazioni invece in cui la rabbia è, come lei ha detto, la punta di un iceberg. Come facciamo noi a riconoscerlo e ad aiutarci o aiutare chi ci sta di fianco? Guardi, molto spesso è un po' la nostra ipocrisia che ci fa prendere in maniera superficiale da alcune situazioni, quelle che voi giornalisti chiamate a volte tragedie della normalità. Ma ahimè, molto spesso è la spia rossa che si accende quando qualcosa evidentemente sta cambiando, anche perché ciò che rende talora la rabbia una rabbia che sconfina, una rabbia incontrollabile, incontenibile, è proprio questo stress continuo che noi assorbiamo, che può andare a far emergere delle situazioni di disagio mentale fino allora compensate. Allora a volte basta un motivo futile, banale, e noi lo vediamo dalla cronaca quante volte basta una stupidaggine. Noi nel libro con Cinzia Tiani raccontiamo che questo senso di diffidenza ha fatto sì che si è trasformato, siamo passati nella nostra, come dire, nel vivere quotidiano, dalla ragazza della porta accanto all'assassino, al mostro della porta vicino. Allora c'è qualcosa che si sta modificando. Allora quando la rabbia è una spia rossa che si accende, bisogna non sottovalutare, bisogna consigliare a quella persona di vedere che cosa c'è. A volte c'è la depressione, a volte ci sono persone che hanno attacchi di panico, che hanno una rabbia interiore enorme perché si vedono per esempio delegittimate dal fatto di non essere ancora oggi riconosciute in una malattia tremenda e vengono ancora presi come dei malati immaginari, come quelle persone che fingono. Allora attenzione, perché la rabbia va presa in considerazione sul serio quando vengono degli impulsi di rabbia. Meglio buttarla fuori o tenerla dentro? È un SMS che ritorna, perché molti ascoltatori dicono: ma la rabbia tenuta dentro fa ammalare. Noi diciamo: non farti il sangue amaro. E le ricerche hanno proprio, e nel suo libro ne parla, sono andate anche in questa direzione. Possiamo Bravissima. Ricordarlo prima di dare la linea a Maria da Torino? Bravissima, perché la rabbia si stratifica, sedimenta e quindi diventa una situazione di stress cronico che logora la salute della persona, prende degli organi come bersaglio, quali? Ognuno di noi ha il suo tallone d'Achille, allora quella rabbia aggredirà quella persona proprio dove quella persona è più vulnerabile, allora somatizzazioni di questa rabbia, dalla pressione che fa alti e bassi, anche dal sistema immunitario, dall'ulcera, dalle malattie della pelle, ecco, la rabbia a quel punto, il cervello pieno di rabbia attacca il corpo e lo danneggia dove quel corpo è più sensibile, più vulnerabile. Andiamo a Torino per Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno, sono Maria da Torino. Sì, benvenuta. Grazie. Allora, qual è il mio problema? Parliamo intanto di una situazione familiare, vivo ancora in famiglia, ma prossima al matrimonio l'anno prossimo, quindi dovrei essere felice e contenta, e lo sono perché è una persona stupenda al mio fianco. Con una, diciamo, ecco, la rabbia talvolta che esplode, dovuta a uno stress sicuramente, dovuto anche al lavoro, faccio un lavoro molto stressante, sempre fuori casa, 8 ore al giorno, sì. Dover conciliare tante cose insieme, quindi a volte avere questo sorta di attacco di panico, oddio, cosa devo fare prima, vado in crisi, esplodo, liti magari così, un'esplosione di nervoso magari col genitore la mattina quando mi sveglio, per favore voglio un po' di silenzio, ho sempre a parlare, un mio padre che è in corso di una malattia, un tumore, quindi vedo la sofferenza di mia madre, stargli sempre dietro come figlia unica, insomma vedi. E questo scatena in lei, Maria, degli improvvisi attacchi di rabbia? Attacco di rabbia a volte quando noto che magari mia madre, ecco, perde un attimo la pazienza con mio padre, io capisco, sì, che mio padre sta male, quindi mamma per favore cerca di essere più morbida anche con lui, quindi vedo a volte un suo nervosismo, insomma. Maria, spesso la famiglia, e parliamo di famiglia col professor Sorrentino, andremo poi a parlare di lavoro rapidamente con il professor De Nardi, sei in famiglia che ci lasciamo più andare, no? E magari quello che tratteniamo fuori lo facciamo scoppiare a casa. Sì, perché la famiglia, Nicoletta, è diventata oggi più che mai il ganglio terminale, una sorta di pentola a pressione, di incubatrice di tensione e conflittualità. Però guardi, io lo dico a tutti i miei pazienti che vengono da me per curare il panico, la depressione, eccetera. Oggi, se vogliamo smaltire queste tossine della rabbia, ad avere un miglior rapporto con noi stessi e quindi con gli altri, no? Oggi bisogna fare sport. L'attività sportiva è fondamentale, è un antidoto importante contro la rabbia, perché ciò che catalizza spesso la rabbia oggi è la incredibile quantità di stress che assorbiamo. Quindi scarichiamo. Lei fa un bellissimo capitolo, c'è una domanda proprio sulla pigrizia e lei spiega perché la pigrizia è un po' la mamma dei mali moderni. Vorrei sentire, prima abbiamo un minuto di tempo prima di chiudere, vorrei andare in ufficio con il professor De Nardis, infatti molti uffici, no? Cercano oggi di dedicare anche un po' di spazio all'attività fisica proprio per far, no, sfogare le tensioni. Professor De Nardis, anche lei un suggerimento a chi la rabbia la sperimenta in ufficio e tante volte la deve inghiottire? Sì, difatti è molto interessante questa analisi, perché abbiamo unito pigrizia, vale a dire l'acidia, la rabbia, l'ira. Io scrissi un tempo fa un libro sull'invidia, sono gli antichi vizi capitali della teologia cattolica che oggi diventano vere e proprie categorie sociologiche, perché spiegano molto spesso proprio questo indebolimento del legame sociale. L'ufficio, io non credo che essere pedissequi e inquisitori nei riguardi dei dipendenti possa risolvere le cose in termini anche di efficienza degli uffici. Il discorso è altro, sì, va bene, è chiaro, gli assenteisti, non certo, la questione ormai si è coniato quel termine di fannullone, che, insomma, sinceramente non so fino a che punto possa andare al di là di un descrittivismo molto superficiale. Sì. Professor De Nardis, ho bisogno proprio in un secondo il suo messaggio. Trovare il gusto del lavoro nella propria realizzazione, e quindi è chiaro che il proprio lavoro va connesso con tutto ciò che è esterno, l'attività fisica, l'attività culturale, va connesso, il lavoro diventa in questo modo un'arte e si gusta a tutto spiano. Ringrazio il professor Sorrentino, vi ricordo Rabbia, l'emozione che non sappiamo controllare, che oggi forse siamo riusciti a conoscere un pochino più da vicino, il professor Paolo De Nardis, sociologo, con cui parleremo prossimamente di invidia. Buona giornata a tutti, io vi aspetto domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Grazie. Essere e benessere.